E quindi ringraziamo il grande Peter Steele per la magnifica musica che ci ha regalato fino a quando è stato in questo sudicio mondo. Questa era My Girlfriend's Girlfriend, tratta da October Rush del 96, grandiosi Type O Negative. Rimaniamo in atmosfera luttuosa, però torniamo indietro nel tempo. In realtà non è un vero e proprio lutto, non si sa se questo grande musicista sia vivo o no. Parliamo di Brian Hirsch, storico beniamino di Mystery Tour, che ci contattò più di 10 anni fa nella vecchia sede di Radio Onda d'Urto per promuovere la sua musica e quella degli artisti da lui prodotti. Poi non si hanno più avute sue notizie. Brian Hirsch quindi nel 94 realizzò questo capolavoro Quest for Truth e noi ci ascoltiamo Temple of Knowledge. Eccoci qua ancora. Beh, siamo sempre presenti ogni domenica con tanta bella immondizia qui sulle frequenze di Radio Naturalmente con Mystery Tour. Buonasera professore. Ci ricolleghiamo all'ambito mortuario. Beh, ovviamente, perché comunque il trash ferale mortuario è sempre, cioè, è sempre fecondo, diciamo. Alla ribalta. È morto, hai come faremo senza? Come? È morto purtroppo. Alla non più giovane età di 91 anni. Ai. Il produttore dei sigari cubani preferiti da Winston Churchill. No. Quindi questa è una notizia. È una notiziona. E quindi l'ANSA si premura di darcene, di renderci edotti subito la conoscenza. Di cosa è morto? È morto, sarà 91 anni. Qualunque cosa. Qualunque cosa sia, insomma. Si è intorzato con un sigaro. Sì. E vabbè. E quindi Alejandro Robaina. Ah, proprio. Sì, no, 91 anni, tenera età, era diventato amico anche del re di Spagna grazie a questi sigari prelibati. Che quindi, buoni. Però dice più in segreto. Sì, dietrologia dell'ANSA. Più in segreto. Anche l'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton fumava i sigari. E sappiamo di anche Robaina, come li inumidiva. Sappiamo queste sconcezze, però non vogliamo riferirle. E questo no, sai perché in segreto? Perché è addirittura doveva violare il blocco economico tra Washington e L'Avana. Hai capito? E rimaniamo in ambito americano, ambito elettorale. Tennessee è stato eletto il sindaco di Tracy City. Ha avuto 268 voti contro 85 della sfidante. Però era morto. Però c'è un particolare. Però era morto. Era morto. Siamo sempre in ambito ferale. Sì. Era morto da alcune settimane. Però lo hanno votato. L'ha votato lo stesso. Quello che... E vabbè. No, io penso che insomma anche quando... Lo sapevano. Quando muore Berlusconi... Lo votano purtroppo... può darsi che già sia morto e che sia solo un simulacro. Di chiana memoria. No, beh, questi lo sapevano, perché Donna Basham, una delle responsabili dell'ufficio elettorale, ha detto che la notizia era stata ampiamente riportata in paese. E quindi come faranno? Forse il sindaco farsi governare da uno zombie. Dall'aldilà. Dall'aldilà. Forse dall'aldilà. Esatto. Visto che dall'aldiqua le cose non vanno così bene. Allora... ci affidiamo alle anime del purgatorio. Esatto. E beh, invece qualcuno che l'ha scampata, buon per noi. Ma. No, addirittura qui riguarda la città di Brescia. No. Perché stavano per essere vittime di una lepre kamikaze. Come? Il sindaco dei Brescia. Il sindaco, questo qua, Paroli. Cosa ha fatto? Erano in aereo, e l'aereo stava per decollare quando una lepre è riuscita a gettare o a farsi risucchiare da un motore di un aereo. Ma questo è successo quasi una settimana fa. E insomma c'erano Paroli ed altri papaveri, altri notabili. E sembra che si sono presi una bella scaga, perché addirittura è uscito fuori di pista questo aereo. Ma dove, scusi? Linate, prima ancora che arrivasse questa nuvola che poi ha paralizzato insomma per giorni, no? Di cui tuttora sembra che domani si possa ricominciare a volare. E mentre invece è un suicidio mancato questo a Napoli. Perché nel napoletano a Torre del Greco una donna di circa 40 anni si trovava sulla massicciata all'arrivo del treno, quando il macchinista ha suonato ha fatto finta di spostarsi, ma invece si è stesa fra i binari. Aia. E il treno è passato sul corpo della donna, ma lei è rimasta illesa. Scoriazione. Incredibile. Può succedere. Ma pensate. Scedica. E quindi vabbè, sempre ormai su questa su questa scia degli aeroporti che sappiamo e degli animali che ormai stanno invadendo, quindi ma sarà la vendetta della natura. È un po' un tormentone anche questo. Sì, sulla pista dell'aeroporto di Catania ci sono troppi volatili, cosicché tre aerei sono stati dirottati a Palermo. Ah, hanno fatto un sit-in. Hai capito? Qualcuno pensa al film di Hitchcock, Gli uccelli. Qualcuno. Ma. Mamma mia, veramente. Babbo. Mentre invece cosa succede? In India... L'ONU fa uno studio e si rende conto che ci sono più telefonini che gabinetti. Aiaiaia. E come si può pisciare il telefonino? Non lo so, come si fa? Il 31%, allora 366 milioni di persone ha un gabinetto. Ehi? E invece i telefonini ce l'hanno in 545 milioni. Ah, però. Cioè 200 milioni in più hanno il telefonino. Vabbè, noi allora festeggiamo questa notizia con un doverosa sciacquonata. E ci spostiamo, purtroppo l'ambito stasera abbiamo deciso di mantenerlo un po' ferale. E vabbè. È venuto a mancare l'anno scorso il grande Mike Baker, cantante degli storici Shadow Gallery, dei quali ci ascoltiamo The Final Hour. Shadow Gallery. grandiosi nostri Shadow Gallery. E torniamo nel cuore, anzi nell'intestino di Mystery Tour, mondo tra notizie squallide. Ci dica, professore. Dalla Gran Bretagna. Dalla Gran Bretagna. Per il filone suocere dimenticate. Lo inauguriamo. Coppia invita suocera a Calais e la dimentica a Dover. Beh, sulle scogliere volevano buttarla in mare. Chissà, sì, che hanno scoperto che costava troppo il biglietto, ma infatti l'avevano proposto loro, sembra. Vabbè, qui non sappiamo. Vabbè, qui l'ANSA, se lei si era imposta, comunque l'ANSA sa tutto. Sì, per cucinarcela ce la mette giù così. Le avevano proposto una vacanza di relax, ma invece le hanno fatto passare diverse ore da incubo sulle bianche scogliere di Dover. Una signora ultra settantenne rimasta chiusa 6 ore in macchina nel parcheggio del porto di Dover, nel Regno Unito. Ma le hanno lasciato un filo il finestrino abbassato per respirare. Dopo che il genero e la figlia si sono dimenticati di lei e sono partiti per la Francia lasciandola nell'auto. Mamma mia. E quindi, a detta del Daily Mail, la coppia era in ritardo ed è salita sul traghetto per Calais senza pensare all'anziana. Beh, ma questo sembra anche poca cosa rispetto a tutto quello che sta accadendo negli aeroporti, nelle stazioni, per via della nube, del vulcano islandese. È vero. Cosa succede invece a Venezia, dice l'ANSA? Litiga con il compagno e per fargli dispetto si spoglia nuda in strada. Hai capito? Protagonista una ungherese di 34 anni. Dai. Dove questo? Allora, no, AH, nome e cognome AH, perché spesso dicono, non ho capito come fanno a discriminare, quando dicono, possono dire i nomi e quando sì, no. Sì, sì, sì, in effetti. Cioè, io credevo quando uno è minorenne, giustamente, no, ma 34 anni, vabbè. Comunque è a Venezia, sul Lido, principale viale del Lido di Venezia, incurante dello sbigottimento dei passanti che hanno chiamato il 112. Ma perché insomma, chiamare Tinto Brass. Esatto, visto che erano a Venezia. I carabinieri sono giunti sul posto, hanno coperto la donna, si sono spogliati loro per vestirla da carabiniere. No, qualche giorno prima però la donna aveva la stessa... Aveva fatto la stessa cosa in un centro commerciale del Lido. A me vuol dire che... Che vuol dire? È recidiva. Che c'ha, come si chiama questa mania di sponore? Esibizionismo, cioè, semplicemente. Ah, beh, è vero, sì. Molto... Vabbè, comunque rispettiamo questa cosa. Dai. Ma qua a Brescia non capita mai. No, assolutamente. Sei andare dove? A Venezia? A Venezia, sul Lido. Morte a Venezia. Scedica. E che vuoi fare? E niente, vabbè, qui è il filone nonne Abelarde, perciò questa volta da Prato. Una arzilla. Novantenne. Mm. Mamma mia, quando ha scoperto un giovane ladro in casa lo ha messo in fuga. con la scopa, non sanno che purtroppo l'ANSA come non al solito, ci è, come al solito, glissa sui particolari più interessanti. E poi lo ha descritto con precisione ai carabinieri. E l'han preso? No, non si sa. La novantenne ha fornito tutti gli elementi utili all'indagine. I carabinieri hanno individuato il ladro nel giro di pochi giorni. Però dice grazie anche all'ausilio di alcuni vicini. Ah, ecco. Oh, vabbè, è un... È un... un... No, ho paura. Alessandrino? Viene da Alessandro. Alba, sempre in Toscana siamo. 23enne, okay. Regolare, Albane... Antonio. Beh, dai, voglio dire, complimenti alla nonnina. Complimenti alla benemerita. Mentre invece, medaglia al valore. Cosa succede in Serbia? In Serbia le difficoltà economiche hanno intensificato l'attività di ladri rapinatori in questo paese. In aumento i furti di biancheria. Ma quello sono i feticisti, è vero. Ma anche di galline. Di galline, vabbè, quelli famosi ladri, i famosi ruba galline. Poi ci sono quelli che rubano la biancheria delle galline. Esatto. Sono veramente pervertiti. Poi i pneumatici, o gli pneumatici, come si dovrebbe dire, i prosciutti, i prosciutti. E in un paese sono stati trafugati tutti i lampioni della piazza centrale. Comincia a essere interessante la storia. Mentre a Belgrado sono scomparse 78 panchine e 37 altalene. Però vabbè, spariscono i tombini dalle strade, i busti in bronzo dai cimiteri. Beh, insomma, volevamo organizzare una tournée a quelle parti, ma forse è meglio evitare. Vedremo di organizzare. Dormite con gli strumenti sotto il materasso. Esatto. E vabbè, ci dica, ne è ancora una? O la dico... Dilla tu, dai. Da Focus. Da Focus. Focus, da Focus. Non siamo mai andati a spulciare Focus. La rivista scientifica. Merita. Allora, si dice che in Svezia è nato Nomix Toilet. Un water capace di separare i rifiuti solidi da quelli liquidi, scrive Focus. Insomma, divide la cacca dalla pipì. Cioè, oh, meno male, si dice essendo un mensile di divulgazione scientifica, spiega cosa sono i rifiuti liquidi e quelli solidi. L'ingegnoso water raccoglie le urine nella parte anteriore della tazza, le feci in quella posteriore. Ma come ti devi sedere? Cioè, ce le divide, Sì. Vediamo. Quindi, la forma del water, la forma della tazza. Cioè. Poi vengono convogliate in due tubature distinte. Hai capito? I vantaggi di questo sistema sono numerosi. La separazione delle urine consente, per esempio, di utilizzarle come fertilizzante agricolo, risparmiando acqua ed evitando che le ingenti quantità, che schifo, di fosforo in esse contenute arrivino nei fiumi, favorendo la proliferazione di alghe. Alghe che nascono dalle urine. La parte solida dei rifiuti può dar vita invece a un carburante ecologico a bassissimo costo. Ma hai capito? Fammer pieno. Ti faccio il pieno. Calate le brache. Come la vuoi? Esatto, no, dipende. Miscela oppure... Vabbè, direi no, che... No, mi c'è tirato per i capelli, quindi quando si tira in ballo il progresso non posso esimermi, quindi dal Canada veramente questa sì è una novità di cui non se ne poteva fare a meno. La prima pubblicazione erotica per non vedenti realizzata da un'esperta nella conversione di immagini in figure in rilievo. Questa benemerita si chiama Lisa Murphy. L'autrice ha infatti realizzato immagini simili a basso rilievi che possono essere viste con i polpastrelli delle dita. E cosa c'è in rilievo? Beh, io l'ho viste queste cose, ma sembrano dei biscotti. Non le ha toccate? No, sembrano dei biscotti. Cioè, non hanno assolutamente nulla di eroico, almeno a vedersi sembrano dei pupazzetti. Vabbè, mi lasci tornare al water ecologico. È duopo. E ci addentriamo nell'ambito delle colonne sonore questa sera di Mystery Tour. Ti ascoltiamo la colonna sonora di un bellissimo musical capolavoro, La piccola bottega degli orrori di Frank Oz, e ci ascoltiamo Skid Row Downtown. Down. here on Skid Row. He took me in, gave me shelter, a bed, crust of bread and a job. Treats me like dirt, calls me a slob, which I am. So I live downtown. That's all the dress you live downtown. When your life's a mess, you live downtown. Where depression's just status quo. Pray I'll get out of here. Please won't somebody say I'll get out of here. Someone give me my shot or I'll rot here. Downtown. Show me how and I will. I'll get out of here. Downtown. I'll start climbing uphill and get out of here. Downtown. Someone tell me when I still could get out of here. Show. Someone tell Lady Luck that when I'm stuck you here. She could show me swell. Nell'angolo dei misteri di Mystery Tour, abbiamo anticipato domenica scorsa che era, esatto, appunto in perché c'è stata poi anche la puntata, era in arrivo una puntata epocale, direi, di Voyager, la prima di questo nuovo ciclo. Bisogna dire che questa volta il buon Giacomo ha soddisfatto Roberto, si è veramente fatto da una serie di titubanze che solito lo caratterizzano. È stato da immagini davvero sconvolgenti del tuo conosciuto come Yonaguni, ecco. È un'isoletta che dunque politicamente appartiene all'arcipelago Ryukyu del Giappone, ma in realtà è vicinissima a Taiwan, quindi è molto più vicina alla Cina che non al Giappone, ed è una zona peraltro molto difficile da esplorare, perché lì l'oceano è particolarmente vivace, per dir così, ed è peraltro anche infestato da squali martello. E il buon Giacobbo si è lanciato, si è messo la tuta da sub e si è quindi tuffato nelle acque perigliose per darci questa testimonianza veramente incredibile. E anche lui è rimasto sconvolto e diceva chiaramente che insomma ormai non c'è più ombra di dubbio del fatto che si tratta di un complesso monumentale confrontabile con le ziggurat mesopotamiche e con le piramidi egizie. Il particolare sconvolgente è che questo edificio, questo complesso di dimensioni appunto di decine e decine di metri, giace a almeno 20 metri di profondità dentro il mare. Quindi quali ipotesi si possono fare? Ormai non c'è più alcuna ombra di dubbio che si tratti di una struttura artificiale, quindi sicuramente progettata, edificata da qualcuno, che peraltro deve avere anche delle competenze notevoli. Per edificarlo è stato edificato addirittura sotto il mare. Questo sembra un po' improbabile. Probabilmente è stato edificato quando quella zona, come la gran parte delle coste, come tutte le coste, erano emerse, cioè più di 10-12 anni fa, quindi prima della deciazione, con la scomparsa di due terzi dei ghiacci che c'erano appunto all'epoca, prima che quindi la deglaciazione passasse il livello dell'oceano di decine di metri. Quindi veramente costruita questa struttura prima che venisse successivamente sommersa. Quindi se così è, si tratta, diciamolo adesso, si può dire, credo, senza ombra di dubbio. D'altronde i nostri ascoltatori possono verificare Google, ormai digitando Yonaguni, chiaramente con la Y iniziale, Yonaguni, e possono vedere con i loro occhi fotofilmati che guardano questa enigmatica e straordinaria struttura. Quindi si trovano più amplonutano fino a questo era attento la grande torre di Gerico, la località appunto in Palestina, che però guardarsi per gli storici la Gerico biblica, tanto per Ea, è di 6-7 mila anni posteriore rispetto a quella prima Gerico, che è nel cuore del Mesolitico, già presa una stura di una torre e alta 2 metri con un salto, che quella assolutamente enigmatica. Certo. E a suo ospite per me mai spanneratoni, dico anche nelle aule, però dove nessuno fa niente per veramente capire di che cosa si tratta, di questo si proposito a così. A proposito di Tempio immerso di Yonaguni, perché avesse perso i suoi Voyager, guerribile sul in YouTube, ecco. Digitando Voyager Uni, in Google Images sono visibili le foto straordinarie, dove si capisce chiaramente che si tratta di un'opera artificiale. Uh-huh. Su questa questione dobbiamo dire che i nostri amici Graham Hancock e Robert Schock, esatto, stati... hanno preso un abbaglio inizialmente, non volevano convincersi, hanno fatto immersioni eccetera, ma ora a quanto pare anche essi hanno dovuto prendere atto che lì si tratta effettivamente di un gigantesco fatto progettato e costruito, se non da una sovrumana. A questo punto non ci sono molte altre in campo. Sicuramente non è opera della natura, perché è troppo regolare, ci sono spoli a 90 gradi, ma è visibilissimo, insomma, gradini, gradoni, insomma, anche noi siamo rimasti sconcertati, perché insomma le ricerche che sono andate avanti grazie alla tenacia dell'archeologo e del dottore giapponese Masimura, il quale non ha mai esistito, diciamo, no, sempre sì. Hanno fatto ormai a quella che dovrebbe essere vetere, no? Con Scopiola direi del secolo, cioè, un impegno degli ultimi 50 anni, cioè, sì, non lo almeno, so, cioè, certo, veramente una cosa sconvolgente, sconcertante, che deve essere discusso. E chiaramente gli ultimi a muoversi saranno ancora i baroni, saranno ancora gli accademici, saranno ancora gli scienziati pagati coi soldi dei contribuenti e che hanno costruito le loro carriere, cioè sul negazionismo, e sempre quindi poi con i loro soci accoliti e manutengoli del CICAP e tutti questi pezzentoni che continuano comunque a propinarci delle cazzate con i nostri soldi, insomma. E dunque, seguiamo in questo ambito, per quanto riguarda le civiltà sommerse, ma tanti ambiti oscuri della storia dell'archeologia. Però adesso facciamo una pausa musicale. Questi brani che ascolterete in quest'ultimo quarto d'ora sono brani di gruppi che si sono fatti vivi. Con Mystery Tour ci hanno mandato il loro materiale di recente. In questo caso abbiamo un gruppo inglese che fa musica tradizionale. Si chiamano Press Gang. Hanno fatto un bel CD che si chiama Outlandish, per chi ama le atmosfere folk della terra d'Albione. Noi ci ascoltiamo Blackbird, questo è tratto da Outlandish, loro sono Press Gang. I'm only a poor boy, my story seems sad. 6 months have I courted a fine London lass. Well, I loved her by night, I found out the hard way. When off in my ship I have sailed far away. And if my love were a blackbird, she'd whistle and sing. She'd fly o'er the waters where her true love sails in. And if my love were a blackbird, she'd whistle and sing. She'd fly o'er the waters where her true love sails in. My love's tall and handsome in every degree, and her parents rise up because she loves me. How then is a safe in my love, my still. If my love were a blackbird, whistle and sing. She'd fly on the waters where her true love sails in. Far away, far away, oh far away. erano Press Gang con Outlandish, album Blackbird, la canzone. Potete trovarli come nostri amici nel nostro myspace.com/mtour. E ora l'anno del Tour Dates Tour. Interessante. La prima è davvero interessante, ed è qui a Brescia, è martedì 27 aprile alla latteria Molloy. Necessaria la tessera WISP, ricordatevelo. Ci sono gli storici, semi-storici almeno, Lords of Altamont, prodotti da Mike Davis degli MC5, dalla California a Los Angeles, un ottimo garage rock. E avremo l'opportunità come Mugshot di aprire questo concerto dei Lords of Altamont alla latteria Molloy, 27 aprile qui a Brescia. Mi raccomando, ricordatevi la tessera WISP. Poi il 13 maggio avremo al Magnolia di Milano i nostri amici Real McKenzies. Ogni volta vorremmo ricordare le vicissitudini della festa della radio, di questi sconvoltoni. 15 maggio avremo i misteriosi Residence al Teatro Leonardo da Vinci da Milano. E poi a giugno una tripletta da spavento all'Alcatraz di Milano. Il 5 giugno avremo i Megadeth che ripropongono per intero Rust in Peace per il ventennale di questo capolavoro, con un redivivo figlio prodigo David Lefson al basso, e questo ci rende felicissimi. Quindi Megadeth all'Alcatraz di Milano 5 giugno. Poi il 12 giugno all'Alcatraz di Milano ci saranno i Bad Religion dalla California, il professore universitario che canta punk rock da ormai 30 anni quasi. Bravissimi Bad Religion, 12 giugno all'Alcatraz di Milano. E il 29 e il 30 giugno ci riprovano gli Slayer dopo le varie ernie del nostro Tom Araya all'Alcatraz di Milano, 29 e 30 giugno. Speriamo che sia in forma il malefico Tom Araya. Adesso rimaniamo in ambito di gruppi che si sono fatti vivi tramite il nostro MySpace per mandarci il loro materiale che venisse promosso qui tramite Mystery Tour sulle frequenze Radio Onda d'Urto. Quindi ci hanno scritto dalla terra d'Albione prima per quanto riguardava i Press Gang con il loro folk tradizionale anglofono, e poi invece dalla Svizzera si sono fatti vivi questi Le Baron Vampire, molto molto strani, particolari, un misto di generi indefinibile. E l'album si chiama Baruch, non so se è un omaggio a Espinosa, non si sa. Comunque Baruch è un nome ebraico. È uscito il 5 aprile, ci hanno mandato questo bel promo. Loro sono Le Baron Vampire, sono svizzeri, e noi ci ascoltiamo Saloon Bizarre. No! bravissimi, molto molti quelli. Le van sono rendo certe parole di Reddit. Quelli te qui le quente di Reddit che ci hanno. E adesso noi vi salutiamo con degli amici del Lago d'Iseo che abbiamo intervistato di recente, i Disordine, che abbracciamo. Ci ascoltiamo un brano tratto dal loro bellissimo debut album Disillusione, ed è un brano molto particolare che si chiama Capitolo 21. A domenica prossima.